10 a Pomodoro, si chiama bene. Vabbè, io l'ho rimesso a posto, ma l'antenna non gli ha fatto nulla, manco una siringata. Appena appena le staffe mi aveva piegato, ma l'abbiamo rimesso a posto, tutta lì andava, è un tipo che andava. Eia, ma tu lo copiavi a Uranio di Osilo? Passo passo arrivava qua. No, per sapere se aveva cambiato antenna, roba del genere. Attenzione Francesco, tu avevi sempre la stessa antenna o l'avevi cambiata? Interrogativo. L'avevo cambiata, no, adesso, quella che adesso è una, è già sto usando la Gimpo, non so se conosci, non siamo qua, con tutti i uno passo che serve per il registro e lato A, lato che possiamo tra l'altro 8 mesi, faccio vedere, dai. Boh, Tony, io ho capito solo J. Paul, se non ho capito male, che l'aveva già cambiata l'antenna, mi pare. Sì, ha confermato quello che hai detto tu. Il vento, aspetta, il vento come si blocca? Ogni tanto lo devo pulire un po'. Il vento ha fatto un bel di danni, anche a CB. Vabbè, Antonio gli è andata bene perché gli ha piegato le staffe del palo, mi pare. Oh, cos'era? Qua ha resistito. Peccato che sono chiuso, mannaggia, proprio la parte interessante ce l'ho chiusa. Vabbè, Alghero è libera, Stintino è libera, zona industriale Poro Torres, per esempio la mia antenna vede la zona industriale Poro Torres, tutto ciò che c'è a destra, guardando verso lì, è tutto chiuso. Peccato. Buon pomeriggio, ben ascoltati da Sanpei. Ciao Sanpei, oggi sei pimpante, 8 e mezzo, invece nel pomeriggio eri basso, avanti. Ciao Sanpei. Ciao ragazzi, ben ascoltati, buon pomeriggio a tutti e tante cose belle, sono qui. Ciao Sanpei, buonasera. Ciao Antonio. Bene. Purtroppo la ventola fa rumore, la sentite? D'altronde se non la metto qua su riscalda e si brucia tutto. Scaldano troppo questi affarini. Ma quale? Ma non dà fastidio la pepina, è una cosa normale. Di qua sto dicendo, quelli l'alimentatore switching. Quelli li mettono dove vuoi. Ma non è necessario che stiamo lì sotto la radio o cosa. Ehi, 203, alias 747, quello lì. Cioè non sembra, ma se tu lo usi già pochi minuti e ci metti la mano sopra, diventa rovente da non poter lasciare la mano. Immagina il transistor che temperature raggiunge. E se surriscalda troppo poi rischia che esce un po' male, capito? Io gli ho messo la ventolina ai computer attaccata a elastico, cioè mobile, la posso togliere e mettere in qualsiasi momento. Poggiata, praticamente solo poggiata, c'è un elastichino che tiene quegli angoli dove ci sono le viti, tutto là. Vai Tonino. Grazie che sono al telefono. Dai, un saluto circolare a tutti. Buon proseguo. Continuate, ciao, ripetato. Ciao. Ma a me non scalda molto, il mio. Non... È strano che scaldi così, ma è stazionale, a posto sono. Sì, Anto. Ciao Tonino, di nuovo. Appostissimo Anto, 1-1 qua. Per non dire uno sta a uno. In questo canale siamo lì, uno sta a uno, proprio non si muove. No, già scaldano e come, a voglia. Uno dice già c'ha le alette di raffreddamento, però diventano roventi. Io non mi fido, io lo faccio per preservarlo. Perché adesso se lo vai a comprare costa molto di più di quanto l'ho pagato io. Mi? Senti il socco della ventola. Ma ogni tanto si muove. A momenti, Va bene. Riprendi Sanpei. Ehi, KK, ce l'avevo anche io poco fa accesa la ventolina che avevo il BV131. Adesso no, adesso è senza BV. Comunque all'amico di Osilo neanche io lo sento perché è tappato dalle montagne di Sinnoli. Ciao Antonio, mi sono dimenticato di salutarti. Comunque, Giamba. No, San Pio a me arriva molto più forte, io... No, no, mi arriva anche 9:10 e passa. Marco, ma io, vabbè, io alzo una latte dolce, sorto solo davanti. Sì, la posizione lì è buona, è come Gianni. E Gianni c'ha il mare davanti, impressionante. Impressionante. Adesso è sceso a Santiago 6, quindi da 8 e mezzo a 6 è sceso, 2 Santiago e mezzo di differenza, e non è poco. Certo, no. Eppure io dal tetto lo vedo il mare, lo vedo, ma come? Vedo anche tutta la zona di giù di Predagnetta. Io lì arrivo a fondo scala senza problemi. E poi Predagnetta è attaccata, ha voglia, va bene. Fate le prove. Hai visto che caldo sta facendo tra oggi, ieri e l'altro ieri? Sembra scoppiata la primavera. Prima pioggia, freddo, coso, 2 giorni dopo siamo passati dal giubbotto invernale alla camicia. Allucinante. Così è. Ma io, come si dice, mi metto alla... Oggi era il sole, la della macchina al sole, era bollente, ho dovuto mettere il clima per raffreddarla un po', per raffreddarla più in fretta, diciamo, dai. Bene, Sanpei riprendi, io rimango altro 2 minuti poi vado, dai. Sanpei riprendi, come il clima là? Siete già in spiaggia, in costume? Caffalogero, oiuia, tutti quanti e pesca di frodo, tutti a mille sono. Hanno messo un video stamattina di Marina di Sosso, era uno spettacolo. Comunque c'è da precisare che ha detto che domenica ne scende l'aria con un crollo di temperature di 10 gradi di nuovo. Oiuia, già siamo messi bene al clima, già c'erano quegli aerei giocando a triste nel cielo e a quadratini. Non è possibile, secondo me sono manipolenti, vedete che il clima sono manipolenti. Comunque la ventolina si sente adesso la mia andando. Sì, sì, un pochino. Ah, quindi crolla di nuovo la temperatura, quindi dobbiamo stare un giorno in Bermuda e un giorno col giubbotto invernale. Vabbè. Tempo strano, una volta era più costante, io quando ero piccolo ricordo che il tempo era molto più costante, cioè la primavera arrivava piano piano, era bella tiepidina, costante, adesso non sai mai come vestirti, da un giorno all'altro cambia il clima, poi quel ventaccio terribile. Di brutto, io avevo un'antenna che sembrava una canna da pesca con un vertice da 8 kg attaccato, però non gli ha fatto niente perché io sono nella zona alta di Sosso, quindi di fronte a tutto il golfo della Ginara, e ti dico che guarda, era una cosa impressionante, però per fortuna a me l'antenna non mi ha fatto niente. Sta scaldando l'apparato piano piano, vero? Perché appena sei entrato era ancora più basso. Ah, sto cominciando a entrare in cuffia. Adesso entra in cuffia il mio baracchinetto. Ma è baracchino quello oppure è quello del pomeriggio? Perché ti sento meglio di radio, sembra più chiara. No, più che sta te stavo uscendo a tratti. Ma lo sai che a me sembra più chiara adesso che nel pomeriggio? Magari è regolata meglio, non lo so. Non è male, ti dirò, non è male. Adesso non sembra nemmeno il mic originale, sembra quasi un mic migliore, no? Forse più distante dalla bocca, forse lo tenevo troppo attaccato alla bocca. Sì, guarda, l'ho visto anche da Carlo, mi pare. Il mic originale, se lo tieni troppo attaccato alla bocca, distorce o proprio la qualità è più brutta. Se lo tieni a tipo 2-3 dita dalla bocca, hai risultati ottimali. E il mio era lo stesso, quando ho avuto quella radio lì, capito? Poi vabbè, subito dopo avevo messo l'MC60 e era nettamente migliore. Ti prendi, Anto? Capo. Dipende che stava guardando il meteo, c'è scritto che arriva la primavera, c'è scritto. Ah boh, cosa ho detto? Crollo di 10 gradi, adesso bisogna vedere. Il meteo, a proposito di meteo, volevo chiedere a Eugenio, ma il Meteomar 156, no, 161 e 900, forse anche 156, ma c'è ancora, perché è giorni che non lo ricevo più, o non arriva il segnale qua, o non c'è più. Sì, io nel VHF di lavoro, diciamo, lo capo precisato lo prendiamo sempre per forza. Quello non può trasmettere. No, pensavo fossero passati sistemi digitali, cosa ne so. No, allora dipende dall'antenna mia. È un antennino mini, micro, poi tutto coperto, capito? Non, il portatore se c'era coperto. Allora è colpa mia. Va bene. Avanti, Sanpei. Gaffa, ciao Eugenio, ne approfitto a salutare Eugenio. E niente, io ascolto l'altra frequenza, quella 650 del posto. Ogni tanto mi ascolto quella lì. E niente, poi del resto sto un po' qua sul 10, sul 12, sull'8, sul 18, insomma fammi metto a fare un po' di zapping se c'è qualcuno, ci facciamo una chiacchieratina e un controllo di segnali e via dicendo, e niente, va bene così. Giulia, avanti a tu. Grappa, ma se scendi grappa usami, no? Grappa, che ti ha toccato questo? È impossibile che non trovi il portatile io. Cioè, l'apparecchiatore non ci sono quelle frequenze lì. È un consiglio. Ascoltate, voi dovete solamente ascoltare. 156-600. Mamma mia, chi sia Gabrielino, me Gabrielino ti ne fende un gozzo di radioamatore, te ne fendi a tu. Hai capito quale frequenza devi usare? Anzi, non la devi usare, ti so ascoltare. Com'è? 100? 100, 56, 600. Poi sali di due canali, che è il numero 14, 156 e non mi ricordo quale, il numero 14, il canale 14, e lì ci sono le manovre. Però non ci dovete parlare. Non sento nessuno. Allora, il numero... Dove sei? Quello è 156-600, è una banda marina, Sì, sì, è il meteo dov'è? È il meteo, sul canale c'è 73, il Bari è il numero 18, 17, non me lo ricordo. Devo controllare il VHF che ho per... di lavoro, che non ce l'ho qua, ce l'ho in camera da letto, non aggiungo ad andare in camera da letto. Forse 161 e 900, Meteo Mar. Eia, io lo... aspetta, io lo copiavo lì, quando lo copiavo, adesso non arriva più nulla. No, ci mancherebbe, in banda marina è off limits. Magari negli anni 80 a titolo sperimentale trovavamo un canale vuoto con la discone, ma giusto per vedere se arrivava dal punto A al punto B, però mai a violare le comunicazioni o frequenze altrui. Arriva già, perché il segnale è debole, non già si sente. Ma lo sai dove trasmettiamo quelli? Come vanno a schiacciare, mi si azzera, ma già c'è. Ma lo sapete dove trasmettiamo quelli? Quello è il capo pertusato che dà le condimette. quello che smette è dalla Corsica. Ah, non è dalla capitaneria, no? Sì, quello è una stazione, una stazione meteo in Corsica. La capitaneria è sempre sintonizzata su quel canale lì, perché loro sono proprio sulle bocche di Bonifacio, quindi hanno una visuale del tutto diversa dalla nostra. No, non lo sapevo. Poi parlano un po' in italiano, un po' in inglese, in modo che sia internazionale per chi transita e non è italiano. Cappa. Una volta era bello il baracchino, perché sentivi anche le barre nautiche di notte, negli anni 80, prima metà anni 80, seconda metà anche, sul canale 1. E si facevano i QSO e arrivavano anche splendidamente bene, era più pulita la ricezione, non c'erano cellulari, tutti questi segnali di disturbo, era pulito, la notte era stupendo, guarda. Quello si chiama capo prefusato. Capo Pertusato, è trasmesso dalla Corsica. E quella mi sembra che 156, 850. È il numero 14. Io nel VHF di lavoro lo prendo. No, sto dicendo cazzate. No, il numero 14 è per le manovre. No. Stavo dicendo cazzate. Quello delle manovre è 156, 650, dove si dice il carico, cosa a bordo, quando stappano l'ancora, quando partono, quello molte volte me lo ascolto. No, ma mica dicono cosa c'hanno a bordo, non possono dire quello che hanno, che trasmettono per radio. Sì, se hanno, quanti passeggeri hanno, quanto pesa tipo la sassa della barca, un po' di roba, dice. Qualcuno dice che cosa hanno in carico prima della partenza. Allora, sì, con il numero di passeggeri, poi ci dicono che ok, il passeggeri sta a bordo, il pescaggio dicono. Capito, 4 metri e mezzo, 5 metri, dicono il pescaggio alla capitaneria e ai piloti. Capa, una cosa del genere, forse l'equipaggio che hanno a bordo, la stata, il pescaggio, quando saltano l'ancora, tipo ritorno, rientro. No, quando saltano l'ancora no. Non lo dire a me, va, ci sono in mezzo. No, ti dicono magari quando scende il pilota della flottina, gli ha provato, siamo alla via, che significa siamo fuori e ci vediamo alla prossima, capito? Ah, è buono, non lo so, l'altro giorno, quando è avanti ieri, gli ha detto che erano in partenza per la Francia, con una rotta di presumibile arrivo, il giorno 3, mi pare, l'ha detto, e niente, invece l'altro, quando c'era mare brutto, gli ha detto che stavano salpando l'ancora per rientrare in porto, perché le condizioni meteo non erano favorevoli. E non lo so, io ascolto quello lì, c'è un ragazzo e una ragazza, c'è, e molte volte salutano e dicono ciao 16, ciao 14 e ciao 12, ma sono in casi di maltempo, capito, che ti dicono va, siamo a ridosso della Corsica, abbiamo gettato l'ancora a 2 miglia dalla Corsica, così. Ma in condizione, poi con ragazzo e ragazza, sarà il primo e il secondo ufficiale, cosa ragazzo e ragazza, il primo e il secondo ufficiale, stanno alla radio. E cappa, perché l'altro giorno uno gli ha chiesto a vedere se il faro di Punta Scorno era acceso, perché stavano iniziando la rotta e quindi volevano essere sicuri se il faro era acceso. E quello gli ha detto cappa, il faro è acceso, buona navigazione, alle prossime, ciao 16. Io li ascolto molte volte, la mattina alle 5 si sentono e la mattina alle 9. E allora metti su 156 600, che senti la mobbia entrare in porto, che chiama i piloti, chiama prima un'ora e poi chiama le 5 miglia. Ma non hanno molta cosa, cioè i nomi non arrivi. Se ci arriva, se li sento io per lavoro, io sono coricato, quando mi interessa noi ce l'abbiamo sempre acceso, capito? Vabbè, tu ti hai fatto un'ora. Vabbè, io ho l'antenna anche fuori, capito? C'ho l'antenna del CB, con attaccata c'ho l'antenna del VHF, ma quella in plastica, in vetroresina bianca. Beh, se no ci non camperebbero molto in mare le altre antenne. Però ricevo bene, ricevo molto, ma molto bene. Certo, cioè io c'ho quello come portatile, c'ho quello, non so se lo conosci, Aragon, una cosa del genere, è come il Baofeng, la matriciclosa. Ce ne sono, io ce l'ho un portatile, il VHF portatile, poi l'ho prestato a un pescatore, però non l'avevo fatto mai perché è quello di lavoro. Sì, se no già è buono, già vanno per... Io ne avevo uno in magazzino, chiamavo a Ciappallo, mi sa di che non so se mio padre l'ha dato, qualcosa, che era un VHF marino, era, ed era tutto di barca, quelli con la cornetta. Ah, quelli antichi, ho capito. Vabbè, Marcoli, sta aumentando il segnale da te, come sta scaldando questo coso? Allora, Santiago 7 è modulato 8, quindi è buono. Sì, guarda, anch'io mi ricordo i VHF marini dell'epoca, specie di colore bianco, portatili, mi ricordo, avevo visto da un CB dei portatili, ma erano veramente belli, a parte che erano un po' grandetti, no? Mentre quelli di adesso sono proprio piccoli, sembrano PMR, quelli erano belli, belli tecci, bianchi, sai poi quelle marche americane tipo, aspetta cosa poteva essere, tipo Pierce Simpson oppure Ray Jefferson, quelle marche di quei nomi là, me, erano veramente belli. Noi li abbiamo usati quelli, adesso usiamo il Cobra Marine. Beh, vabbè, adesso ce ne sono talmente tante di marche, non saprei. Avevo un certo fascino, anche quelli con la cornetta erano carini, che in un ambiente rumoroso ti aiutava ad ascoltare meglio. Pensa che avevano fatto anche un baracchino a forma di cornetta, cioè sembrava un citofono, tu lo appendevi al muro, sollevavi la cornetta, sentivi credo l'audio anche ambiente, ma quando sollevavi la cornetta avevi l'audio anche proprio all'orecchio e la cornetta vera e propria, però ha avuto poco successo perché ma zio Claudio non l'avete sentito? Allora, a metà serata l'avevo sentito, io vabbè stavo facendo altro, quindi era a basso volume, però Claudio c'era, è vero Anto? Sì, c'era. Aspetto Claudio, il cupani. Ma mi arrivi, 9:10 mi arrivi a farfari. Mi arrivi bene. Oggi. Io? Lì guardate che... Sì, che arrivare, va. La radio è comprensibile, alla grande, sì. Quello sì, la radio è, a me sembra, te l'ho detto, molto migliore il pomeriggio. Sarà impressione mia, a tu. No, va bene la radio. Vabbè, perché lo sto tenendo lontano dalla bocca. Mi ero dimenticato, cioè, ero convinto che avendo il microfono originale dovevo attaccarlo alla bocca. Perché guarda, se lo attacco alla bocca così ho cambiato qualcosa. Beh, più forte, un po' più impastata, diciamo, però è capibile lo stesso. Guarda, anche l'857 era così, il quadribanda Yaesu. Se parlavi attaccato al mic era terrificante, se parlavi a due dita, diciamo, passabile, se ti allontanavi non si sentiva nulla, non ti sentivano più, era una rogna per modulare. Ma non era fatto per la M quello in SSB e in FM era ovviamente superlativo, ma per la M poi qualcuno aveva parlato di miracolose impostazioni, boh, nessuno però le ha messe nemmeno nei forum, cioè tutti conoscevano queste impostazioni per uscire benissimo con l'857, ma nessuno le pubblicava mai o le rivelava, forse per avere il privilegio di essere gli unici a conoscerle, probabilmente, e si dovrebbe condividere invece, vabbè. Sì, vabbè, ma io ce l'ho un palmo dalla bocca adesso, ce l'ho un palmo dalla bocca, e va benissimo, mi state dicendo che va bene, va benissimo. Ma il K sì, l'857 no, lì dovevi stare a una distanza predefinita, giusta, se no usciva male o non usciva. Vabbè, ma era un veicolare, roba fatta per la VHF, HF50M, tutto aveva, tutto quanto. Però per la M faceva veramente... No, io sto rivalutando la comodità del microfono palmare, lo sai. Anche perché sono coricchiato di lusso. Ma infatti, guarda, io certe volte, tipo il pomeriggio, soprattutto mi mettevo sdraiato qua sul divano, dando le spalle, o meglio la testa, la nuca verso il baracchino, e usavo il mic palmare. Invece poi devo stare secco e pesto di fronte a quello da tavolo, sì, mi posso allontanare, mi metto qua, si sente lo stesso, però poi fa l'effetto stanza e comincia a essere brutto per chi ascolta. Kappa, avanti Sanpei. E a Kappa, io invece ho quel PMR TD Radio H8 per ascoltare quella roba lì. Sanpei arriva alla grande qua, Ammazza te ne scenda, qua sei agganciato. La tuffetta andando c'è il VV131, 15 valvola, 16 valvole. Che è pittano dico. Ora. E l'antenna c'ho una Gain Master. La Gain Master hai tu. Uguale alla mia, quella che avevo prima, che mi serve prima che si rompesse. Qual è, mezz'onda o 5 ottavi? No, io ho la versione 5 ottavi seconda serie con i manicotti nelle giunzioni per avere più elasticità. Cazzo, non riesco a regolare l'MC60. Mi fischia, prende qualcosa, si porta dentro qualcosa, mi fa un innesco. Non è che c'è qualche caricabatterie di telefono attaccato vicino, no? O qualche cosa che gli fa fare quell'innesco? No, ho già provato, no, ho attaccato tutto, solo l'apparato, niente. Oh Eugenio, hai provato con un alternatore diverso? Adesso, vabbè, no, non è il mio caso, però mi pare di ricordare, ma quello dico, quello nego, che se attaccavo l'MC60 al 140, se lo tenevo proprio attaccato, forse mi innescava, però sono passati così tanti anni che ho il dubbio che magari ricordo male io. Ah, vabbè, non lo so, adesso vediamo un po', però ti ripeto, questo qua mi sta troppo comodo, il microfono originale va troppo bene. Secondo me c'è una distorsione dal capo, se te prendici di gambo, perché è successo a me una volta, non capivo cosa cazzo era quello lì. E cos'era? Ho dovuto mettere l'H155 se volevo usare il keyboard. Sì, ma dove l'hai messo? Nell'antenna? Hai cambiato il capo antenna o il capo del microfono? No, ho dovuto cambiare il capo proprio, il capo dell'antenna, perché mi dava distorsione. Quando mettevo dei microfoni troppo potenti, cominciava a frusciare. Poi avevo capito che era quello il problema. Me ne ha dato un pezzo una persona, ma te prova questa a vedere. A posto del 58 ho messo l'H155 e mi sono finiti i problemi. A me mi ha fatto questo effetto. Vabbè, io volevo cambiare il capo, devo mettere il RG213. Sì, già che cambia dal giorno alla notte, cambia. Lo sto già dicendo. Dove devo stare a comprarlo? Antenne di voce. Cosa? Antenne di voce. Ma tu capisci come tu? Mantenerti forte, ho detto. Cavolo. Mi pare che prima aveva un costo un po' più ridotto. Ma ormai che si cura, quanti metri di esempio, si cura un metro, mi pare che. 20 metri, qua 18-20. Costa parecchio il capo adesso, costa molto molto. Però è buono, ti dura una vita, ti dura. C'è del gabbo, Matteo, quando ho chiamato un gabbo non me l'ha fatto più. C'è una vita via e un gabbo, dove ha fatto l'anno fa. Vabbè, adesso vediamo, allora già andiamo di uscire. Ho rivalutato il palmare, che è anche comodo. Boh, dipende. Beh, signori, a salire qua a tutti, ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte a tutti. Vorresti per me saluti circolari, tante, tanti sogni, sognatemi nudo, tante cosce calde a tutti, ciao. Ciao, ciao, oggi. Ci sentiamo. Cos'è quello? La Tornado come antenna? Sì, è la nuova Tornado, la nuova Tornado. Piazzata, comprata nuova, piazzata e sta andando quella. Da San Cosa, cioè che è matta, arriva molto forte a casa. Ok, dai, ci sentiamo. Ciao Eugenio, buona serata, buon tutto e ci risentiamo quando capita. Vai Sanpei. Ciao Eugenio, buon proseguimento in serata e niente, ci sentiamo alle prossimine se coincidono gli orari e se ci troviamo in frequenza. Ciao ciao e niente, fai girare anche tu. Quindi con la creatura è un'altra versione o... ma ho sempre della Game Master. Non ti ho capito, tu avete parlato su Eugenio. Ho detto che è un'altra versione con la creatura della Game Master. La mia è la seconda versione, 5 ottavi. Già, va bene. E gli amasse allungo il palo del tetto di 2 metri funziona meglio, perché adesso è, si può dire con il palo che gli ho fatto c'ha un metro più sopra della linea delle tegole, da troppo poco poco. Sì, vabbè, ma io l'avevo messa così perché mi trovo nella zona alta, capito? Però magari se poi Davide, mio fratello, c'è un momento di tempo libero, mi faccio aggiungere un palo, tanto me l'ha fatta con due bulloncini per mettere un altro palo e fissarlo, capito? In modo che... e poi gli mette di nuovo l'antenna con le fascette sue all'altro palo e rimane più alto di altri due metri, da un paio di metri. Solo che già l'hai visto casa mia quanto è alta, anche se, quindi, solo che il problema è che con l'amico di oggi deve essere che c'ho qualche angolo coperto e non lo cuffio, cioè lo cuffio sì, ma lo cuffio basso. Guarda che se tu l'altro con l'antenna funziona bene pure. E infatti dai, vediamo adesso come entra un po' la primavera buona, il tempo che migliora e magari costano ancora più bene. Del resto per il momento va bene così, tanto mi sto usando il Midland 68, quindi fino a sistemare la trattazione uso questo. Hanno venduto i colleghi in massa. Gianni ce l'aveva, dice truncata nel vento l'aspettata, e poi ci abbiamo trovato un problema qui la prossima antenna. E andiamo a quella Tornado, va bene, mi presto quali qualità è buono, se poi anche lì li metti i manicotti in gomma nelle giunture, secondo me non si spezza, perché ho visto un video di uno che ce l'ha senza tiranti, senza niente, sembrava tipo la mia, una canna da betta con un vento baria, pensa che in fondo si girava. Questo con la Reggio Maria che il vento l'ha piegata, l'ha piegata bene, l'unico che ce l'ha qua la Fedolce, ce l'ha lui e Giulio Dolla non ce l'hanno, la Game Master. E poi prima c'aveva la buona neva di Natalino, ma Natalino non c'è più. Ma cosa Figaro stai dicendo? Sì, Gian Maria ce l'ha. E Gian Maria ce l'ha tornato? No, la Game Master come la tua. Gaffa, gaffa, perché ce ne sono due modelli, c'è quella con i manicotti e quella senza manicotti. Vabbè, adesso lo stanno modernizzando. Manicotti è questa che come la mia è l'assidio, cioè con le viti no, perché la seconda versione c'ha l'attacco del palo che è leggermente più grosso, capito? Sì, la robustita l'hanno. Me e te, e te. La frequenza di Malai posto e mi ha detto che a bisogno uso rientrando quasi quasi mi mostro una pianata prosciutto la tua e Julio io accusava le cose con un dramma accusavo prima via e faccio la ventolina di Ugo su me ne mangiando un debito perché ce l'ho qui vicino e mangia ragazzo un sistema pulita cioè a mettere la parete un pochino più lontano perché ce l'ho cosa ne so dovrà giù a una partigiania 30 gentile che danno in me e niente e va bene così poi non lo so doppio rum non c'è entrato stasera. Non ho sentito. Cioè, no, no, come no? Poco fa. Poco fa c'era. Gaffa, gaffa, allora è uscito a portare a Tyson. Eh sì, stava lamentando Tyson. Comunque anche senza lineare già arrivo bene da 6 anni. Sì, ma c'è anche 747 tu mi pare, no? Eia. L'avevo preso su eBay un bel di tempo fa, l'avevo pagato lui insomma 50 euro, 60 euro. Ma nuovo mi ha fatto tutto spedito. Adesso li vogliono di più, 80 euro mi pare. Cosa quello? Cioè ha alimentato il switching? No, non ne ho alimentatore pronto da mettere su quello lì adesso. Se no ve l'avevo pure. Ma già va bene questo che ho, che anda bene, che è una bombetta, quello lì, ma dai cinesi non vuole comprare, sì. Cioè, ci sono quelli lì per la niente, me, che ce l'hanno. Io già lo so dopo. Capito? C'era uno switching con la ventolina da 50 ampere, mi pare che. Lo devi usare. Ma me lo devo cablare, me lo deve fare Davide, così me lo regola 13,8. L'altro giorno mi ha fatto la scatoletta di legno con il pannellino per mettere il fastom, diciamo, dai, la spia con l'interruttore e niente. E quando adesso me lo finisce poi già me lo piazzo. Perché così quello lì me lo uso in cameretta dove c'è quell'altra radio, capito? Scappa, io mi facevo solo mortati da caricare che era un bel tempo senza caricarlo. Cazzo, ma che c'è vestito? Me ne avevo pigliato il mio buono, ha citato i mortati da qua, ma rabbieggio. Come sa caricare stanotte, è da un mese sa caricare, mesi. Ma era sempre in carico. E sono utili i miei portatili. Io per esempio il portatile c'ho l'Avan 38 mi sembra, con il caricabatterie da base e l'aggancio dell'antenna sotto con il filo dell'antenna. Quindi manco un problema si va giù un antennino buono. No, già vanno bene già. L'ho comprato dai cinesi, perché c'era quel boffo che mi si era guardato. Poi ho preso questo qua dai cinesi, a quel Danietta, e funziona bene. Anche la buona anima di mia moglie me ne aveva lampato, anche tu quattro di borsetta, me ne aveva lampato. Dopo proprio non ha funzionato più. Adesso con questo già. Gli andenti, cioè, già funziona bene questo qua. Gappa, no, io ho comprato quel PMR o come si chiama, tipo il buffer della TD Radio da Sirius, che era in offerta, che avevo 5 euro anche di sconto, e avevo pagato 45 euro ed è verde fosforescente, bellino, il modellino, e c'ha 10 watt. Sono belli quelli. Questo già l'ho preso, ma il mofo che c'avevo era bello frutto, ma non costava un capo ultimamente questi così qua, costava poco. Ma infatti l'ho preso perché gli assicurano i pinni 50 euro. Poi ho comprato l'antennino, quello più lungo da 35 o 40 centimetri, della Diamond X920, l'ho pagato, mi sembra, l'antenna l'ho pagata 5 euro spedita da Temu, quella l'ho presa però, perché era più conveniente di... ho capito, e quella è buona già. Ehi, perché è arrivata nella bustina verde, quindi dice che più o meno è originale. Invece se tipo nella bustina trasparente e dice che non sono molto buone, però io gliel'ho piazzata e funziona bene, perché questa radiolina qua c'è anche la funzione di ascoltarti tipo Radio 105, Radio Nova, Radio del Golfo, e quindi un po' di volte mi ascolto la radio e poi magari quando entrano in frequenza dico quelli del porto o qualcuno mi sta parlando sulla frequenza che parliamo noi, e allora ascolto anche quelli lì. Ma il mio non c'è la 27, il mio c'è la, non c'è gli di 10 metri, non lo so, 11 metri. Io c'ho VHF o HF? E questo qua dovrebbe essere HF, VHF, non lo so, c'ha delle funzioni. Se poi fai il collegamento Bluetooth con il, come si dice, con le cose che c'è su Google, lo puoi programmare anche per ascoltare così dell'aereo, però devi chiedere tipo un permesso, non so bene. Sì, forse le frequenze aeronautiche. Eia, ma sicuramente ti danno tipo meteo spesso, partenze, ritorni, questa cosa qua penso che diranno. Sì. Dipende. Sentivo l'aeroporto di Alghero, un periodo avevo beccato la frequenza, lo sentivo. Sì, cosa c'è Gabriele? Io ti saluto, ci sentiamo alle prossime. Ehi, tu andavi, dai, adesso l'ho spento il lineare, come arrivo senza lineare? Bene, uguale. Ehi, ok. Ehi, ciao, Antu, buon proseguimento. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao. Oh, ciao a tutti, mi stavo un po' anche assopendo qua, dai. E c'ho questa stanchezza a fine serata incredibile. Buonanotte a tutti, ciao Antonio, Sanpei e tutti gli ascoltoni, ciao. Ciao, ciao, buon proseguimento e buona ricarica. Se non metti di un goccio di distillato non hai più un ferro. E da voi di maglioni sono un tondo male sartista. No, qua, proprio quello no. Io qua potrei avere dunque, non potrei avere, rum, brandy, vodka, liscia, per gli ospiti, sempre, per gli ospiti. Poi c'ho quello terribile, come si chiama? Il latte di suocera, quello che c'ha 70 gradi, che però lo bevi, lo devi bere diluito col ghiaccio, no? Però non è tocco di quella roba, io non sono abituato. Mi posso bere un bicchiere di birra a pranzo o di vino dolce magari, però fuori dai pasti niente, niente. Non tocca, se non sono abituato. Dai, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Beh, andavè. No, sono troppo zuccherosi quelli curi, invece quello là, o un bicchiere di vino rosso, oppure un goccino di distillato di acqua vite, ci sta, però sempre mangiando come hai detto tu. Va bene, dai, ti lascio alla tua buonasera e buon tutto, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Adesso vado a cenare, mi sbronzo la Coca-Cola, quella già mi piace, acqua frizzante eccetera. È vero, devo pure cucinare, mamma mia. Dai, buona serata a tutti, ciao ciao ciao.